fare neanche la terza dose, perché una volta che passi il Covid devono passare almeno 5 o 6 mesi dopo, prima di vaccinarti, no. Però deve essere aggiornato anche il Green Pass, perché se no non è tirato tutto ormai se non c'è il Green Pass rafforzato, capito? Eia. Ma perché so che te lo mettono in sospeso un attimo? E comunque ha sbagliato il farmacista, mi ha mandato un messaggio che c'è scritto che, come si dice, che ero negativo, invece sono positivo. Ma me l'ha detto comunque, che aveva sbagliato. E come ha fatto a sbagliare? Come fa? Non ho sbagliato, come ci mette negativo, ho messo positivo. Infatti su io, aspetta, adesso apro io. Un attimino, aspetta. No, me, io l'ho fatto in farmacia, me l'ha detto subito. Sì, ma ho sbagliato, non ho mandato il messaggio, là, dettagli. Allora, certificato valido 48 ore da allora del prelievo. Malattia o agente bersaglio. Test antigenico rapido, negativo. Ma me l'ha detto che ha sbagliato nell'inviarmi, capito? Però sono positivo. Nel scrivere il documento ha sbagliato, dai. Bravo, provato il foglio, verso positivo. Sì, no, io l'ho fatto lì vicino alla questura. Non è stato a pagarlo, subito mi ha avvisato che era positivo, subito me l'ha detto. Sono un'idea pazza. Secondo te dove te l'hai beccato tu? Forse al circolo da un amico, non lo so, fra. Ti direi una balla, non lo so. Un casino, dai. Vediamo un po'. Si è rientrato l'amico di Porto Torres, Antonello, se no riprendi tu, Anto. Vai, Anto. È un casino. E nel caso che tu non lo sai, per esempio, che l'hai passato, e fa lo stesso il vaccino, fa male o fa bene? Dicono che fa male, dicono. E cosa cazzo mi gioco? Infatti i miei genitori prima di fare il vaccino se l'abbiamo fatto da poco, l'abbiamo fatto fare prima il tampone e poi l'abbiamo vaccinati. Ma se era già passato mica lo sai tu, mica ti segna quella fare. Allora devi fare quello, come si chiama? RNA, un altro tipo di controllo che ti dice se l'hai passato. Dalle analisi del sangue, non degli anticorpi che possiedi. Nel caso l'hai passato, cosa ti fate? Un green pass subito? Dovrebbero aggiornarlo, sì, quello che abbiamo dovrebbero aggiornarlo, dovrebbe essere rinforzato, in teoria, poi adesso vedremo. Perché hai tirato, cazzo? Tu hai fatto qualche controllo? No. Neanche di quelli, te lo compri uno, te lo fai in casa. Che ti tiro zacchiano in culo? Io non l'ho mai fatto, pensavo fosse più fastidioso, vabbè, in farmacia è più delicato. Quello che mi faranno domani, quello molecolare, dice che uno sulla lavandino. A me ci sono buoni taccanti di gueo. Ma io senza quello non posso rientrare a lavorare, capito? Tanto, Paola, bella, per favore. È un casino, Sembra così, ma queste, se vuoi andare, devi fare il vaccino, altrimenti te ne stai a casa. Poi molta gente, ma sa che hanno detto che il tampone non va più bene. Devi vaccinarti, è obbligatorio vaccinarsi, devono vaccinarsi i cinquantenni. Sì, dai 50 anni in su è obbligatorio. Luca, vaccinati pure tu, No, io sono a posto, ho le 3 dosi. Anche se ho preso il Covid, comunque, forma leggera, attenzione. Ma io ho 2 dosi e sono, grazie a Dio ancora, non ho preso niente. Non so, poi mal di schiena e basta. Ma quante dosi hai tu? Io ho fatto solo 2 dosi per adesso, però sono, una cosa ho preso, mal di schiena e basta. No, a me il braccio, la terza dose, la seconda dose, un po' di febbre, d'estate. Lea, cosa ti ho detto? Vabbè, avanti a tu. Gappa, ma di tu che su Bastore che venerdì fa il karaoke. Ma io posso uscire a tu. Io posso uscire lunedì a fare il tampone. Se sono negativo, ok, ci sta. Se no devo continuare la quarantena. Ah, vabbè, io sono come intende. Gira da fare un karaoke. O per lui. Difesa, io sono negativo giovedì, vai. Speriamo bene. Speriamo bene. Claudio, ci sei? Chi è arrivato, Cristian? Ok, mi sarei voluto una camera anche da solo. Però non avrei problemi. Una camera, un bagno ovviamente. E una cucina, qua mangiare a cucinare qualcosa, da solo. Non sarebbe un problema con mia madre, cazzo, molte volte ho paura di uscire fuori anche. Poi insomma c'ha patologie, quindi devi stare attento. Io all'inizio stavo dormendo un'altra tanta, però alla fine mi ha contagiato lo stesso. Ho fatto una fesseria, capito? Il dentifricio, il rubinetto, la maniglia, l'interruttore della luce, capito? Ti frega, prima o poi ti frega, maledetta. Non è quello allora. Io non so dove vado, dove mi accompagno, non ci posso andare perché lei è negativa. Dove vado? Dimmelo tu. E più che qua non posso stare, devo stare chiuso qua e boh, che sta decidi. E poi non devo entrare. Infatti dico, prima o poi ce la becchiamo tutti questa cosa. Speriamo di prenderla nel miglior modo possibile, in modo più leggero possibile. Beh, speriamo sì, di sì, con poco ma sicuro tu ce la prendiamo, ce la pagheremo tanto. Dove sei Cristian, che ti sto perdendo? Sono già vicino a casa, guarda. Non so dove abiti, boh. Ma stai scendendo, vuol dire, perché non ti sto perdendo io. No, qua non c'è problema, sei occo. Guarda. Anto. Ehi! Mi che non sei ci dugra. Cazzo di cose di merda che... Queste 10:60 lo prendo, lo sbatto a terra. Sempre... Scusate, sempre lui è... Allora, non c'è niente da fare. Mi sta dicendo che vuole andare in pensione, boh, 10 anni ce l'ho, cazzo. 10 anni. Ha giù fatto di tutto, passa in vallo. Allora va a fare la video con un tattore d'antenna, mi... Più lontano dello grasso, no. Magari una fesseria si può riparare, dai. Cazzo, un microfono del genere. No, bisogna eliminare quel tattino, bisogna lo dire a Fabrizio, con calma, pintarci, se me lo faccio fare, c'era io, l'ho controllato, ma non è lavoro per me. Ci sono dei fini da saldare da un'altra parte, non voglio fare danno. Cioè eliminare il tattino e metterlo diretto, capito? Perché quel tattino ogni tanto si inciccia, si inciola e via. Ora tanto a fine settimana sistemiamo quella cosa là delle femme, che il mio l'ho sistemato. E che marazzo si è? Troia. Vabbè, non ti dico nulla, no, grazie. Ho capito, va. Eia, ti ricordi che non siamo passati in FM che mi ha detto che c'era un problema? Già te lo sistemo io. Kappa, già sono qua, basta passare in settimana. Vabbè, io sono fine settimana, ci sono a casa. Fine settimana, Antonio, fine settimana, capito? Allora, domenica mattina ci prendiamo un caffè e te lo sistemo. Il mio l'ho già fatto. Quello ti fa a me, dai, ciao a tutti, buona cena a tutti, dai. Ciao, Cri, ciao. Kappa, Cri, con me non ci sono problemi, io ti sento sempre. Sei 8 o sei a casa? Sei anche qua, 7-8. Mi sono le persone di casa adesso, sono andato in casa, al calduccio, duccia, cena, mi sei gocco. 7 sei qua, Luca, Cri. Da me è un po' di più, è 8. Tu ce l'hai più vicino, comunque già arriva bene. Capito, niente, ti ricordi che cos'era quel difetto? Aspetta, saluto a Cristian. Ciao Cristian, buon venerdì. Avanti. Ciao Cristian. Io ti mando un messaggio, sì, rincoglionito, grazie. Ma a me? E allora, per il bella. Ehi, avanti. Mandami un messaggio. Kappa, vedrai che quando ti basta stai molto più bene, sai. Speriamo di rinforzare questo sistema immunitario. Dovrebbe essere il sistema migliore per farti gli anticorpi, no? Ma sai che faccio un dubbio. E cioè? Se non fai un controllo non lo sai. Però. Quindi tu. Basta un attimo che ascolto il messaggio. Luca. Eia, ma tu se l'hai avuto, fra. Ogni tanto, ma non più di tanto, dai. Ogni tanto qualche colpettino mi viene. Non da preoccupare, dai. Mi ha dato un antibiotico. Prima i prigioni io non ho preso nulla. Sembrava che stesse passando senza niente, invece poi sentivo sempre questo. Come ti posso spiegare? Un po' di peso nella parte alta dei bronchi, dai. Allora mi ha ordinato l'antibiotico, in più sto facendo l'aerosol per spurgare il tutto, dai. Male non farà questo aerosol. E tu cosa stai prendendo? Guarda, io la tachipia non mi fa effetto. Poi l'ho fatto sciroppo secchio e scritto. Poi prima di gola boloccilina, quello gola dolore. E poi come medicina occhi, mi fa la di Dio. Cos'è? Un antinfiammatorio? Cos'è l'occhibuco? Non lo so. Come si dice? Sì, un antinfiammatorio, un antidolorifico, sì sì. E quindi dovrebbe andare bene, dai. Cioè, già che mia moglie l'hanno prescritto quello lì. Un'altra marca, tipo Bruffe, che faccia la stessa cosa. E più o meno siamo così, solo che lui che me l'ha detto. E ecco, tanto. Ormai siamo in male e balliamo. Cosa vuoi fare? Oh, via. Saldino, mamma mia. No, comunque stanno dicendo, fra, che dopo la terza dose, passati adesso 5, 6, 7 giorni, 8 giorni, che se fai il tampone risulti positivo, lo sai. Stai sviluppando gli anticorpi, magari. Quindi un minimo di malattia te la stai passando, non lo so. Quello volevo chiederti una cosa, se mi sta scappando. Ah, la terza dose quando l'hai fatta tu? Il 3 gennaio. E ti sei ammalato? Sta sabato e domenica. Quanti giorni erano passati? Fatti il conto, sabato e domenica quanto era? Allora oggi è 10, no 11, sabato 8, 8, 9, 10. Allora, tra sabato 2, 3, 4 giorni, dai. Perché la copertura del vaccino non ce l'hai subito, ce l'hai dopo, non so, 10-15 giorni, così mi stavano spiegando, no? Infatti, per quello. Ma lui comprende, io non ne comprendo nulla. Non so. Sono ignorante in materia. Purtroppo ci dobbiamo fidare questi dei nostri medici. Vediamo. Per esempio mio cugino che lavora in ospedale. Quando gli ho detto che sto prendendo l'antibiotico, ho detto che mi sembra strano, perché l'antibiotico è per combattere i batteri, ma questa è una forma virale, è un virus. Soltanto che molti medici seguono un protocollo che hanno e quindi si prescrivono queste medicine qua. Forse hanno paura che si crei qualche accumulo di batteri a livello dei polmoni, capito, dei bronchi, e quindi per evitare problemi ti danno l'antibiotico. No, fra, io non ne avrei preso, era io non ne avrei avuto antibiotico, assolutamente. Lo so, ma ormai l'ho iniziata e non posso bloccarla, dato, sto quasi finendo. Manco io, antinfiammatorio, sì, solita tachipirina, nivicia, giubiliato di indotto, Actifed, i pochi per i dolori, ma antibiotico, c'è attaccato l'antibiotico. No, io so, altre medicine no, già no, all'inizio proprio non ho preso nulla, poi ho visto che stava perdurando troppo, allora ho chiesto e lui mi ha prescritto questo antibiotico. Due volte al giorno non è molto forte sicuramente, non è di quelle cure corte, sono di quelle prolungate, tipo 10 giorni, dai. Vabbè, no, ancora non ne ho preso nessun antibiotico. Ah, ti bomboli! Ehia! Allora comunque va giù anche il dubbio, beh. E a dubbio vai anche. E il camarazzo se mi ha giubilato da buru e io non mi sono capizzato. Perché? Che sintomi hai? No, mi dà già tutti, ma faccio con quasi me. Ma sei vaccinato tu? Appa, e beh, se io puoi travagliarlo. Allora in forma leggera, non c'è problema, anche a me mi ha preso anche tu. In forma leggera mi ha preso, adesso mi sono ripreso, prima ero tutto a dolori, raffreddore, capito? Faceva male le braccia, le gambe, modo, adesso mi sono ripreso e va bene così. Vabbè. Però quando avete queste cose, cazzo, non costa niente, ti vengo un attimo in farmacia, me lo fai un tampone rapido, e sei sicuro, cazzo, e sei sicuro, perché se tu ce l'avevi adesso, se disgraziatamente è successa una cosa del genere, tu che stai nelle case, vai a lavorare nelle case, a fare il tuo grande lavoro, perché è un grande lavoro, puoi aver fatto danno. Ehi, la dico io, che non lo so. Però dico pure una cosa, dal danno ho fatto anche il bene, perché se tutti, cioè se ti contagiamo tutti, cosa succede? Che lo passiamo tutti e iniziamo subito la cammesa. Invece così, essendo sempre distante e cosa, secondo me fa più male che bene. Non lo so, io posso essere d'accordo con te, però è un casino. io sono rimasto a casa una settimana intera, a casa posso uscire qua, uscivo fuori, facevo una passeggiata giù, verso il cantiere, verso il cancello di strada, già, Franco già lo so, verso... mi sono mosso, anche l'aria, fuori, nel giardino, eccetera, però non siamo andati da altre parti, capito? Assolutamente. Va bene, dai, speriamo di no, comunque. Ci hai capito quello che ti ho detto. Avanti, Luca. No, io sono uscito poco fa a portare il cane, chi lo porta? Portata vuole. 5 minuti, poi già lo sai, apro la porta e sono già fuori. Non c'era nessuno e poi me sono rientrato. No, ma così va bene, Luca, basta che non stai a contatto con la gente, mascherina, esci furti, vuoi fare una passeggiata in Chivi e a Garrera, non succede assolutamente niente, anche perché tu sei già vaccinato, quindi non succede niente, capito? Però per te, perché devi stare al caldo, se no non ti passa, capito? Non ti passa, io i primi 2 giorni ero grimbato, non riuscivo a fare manco a letto, grimbato dalle 2 ore, nausea, capogiro, il tutto giù passato. Però adesso mi sono ripreso e non sto uscendo, però posso anche uscire, capito? Avanti, Franco. No, noi abbiamo salvato proprio la lettera da quarantena, dai. Addirittura stanno passando a ritirare la mondetta, perché non possiamo buttare la nostra mondetta nel cassonetto, non vogliono, capito? Quindi ci hanno guidato di metterla da parte e passano ogni tanto, dai, a ritirarla, figurati. Avanti, Luca. Allora, il casino sai cosa è? È che io, come hai detto tu poco fa, Franco, che vado a toccare la maniglia, vado a toccare il rubinetto, e vado a toccare quello, insomma, è un casino. Infatti mamma non ci riusciamo a capire la bottiglia dell'acqua, ho detto tieni la tua, gliel'ho offerta con lo schiaccianucci, perché non volevo toccare il tappo. I guanti usi come usava l'aria, non succede assolutamente niente. E poi ti tieni appresso la mucchina, qualsiasi cosa tocchi te la disinfetti con la mucchina e non succede nulla. Non facciamo né un dramma, che non è niente di grave, è una semplice influenza. Questa variante purtroppo è una variante Covid, e Covid viene chiamata, ma è un'influenza, non è niente di cose, non attacca il polmone, non attacca nessuna parte, però ti grebba, e se non sei vaccinato può essere pericoloso, tutto qua, questi sono i discorsi, non è niente di che, quindi l'abbiamo passato a tutti oramai, anzi, io ti posso dire che sto anche meglio, mi sento più in forma, capito? Forse il Covid ma svegliato l'ormone, nonostante la giubbotta, la molletta, abbia giudito, non è successo nulla, non ho detto manco va, ma se non ti bevo alle un pezzo di ganapa. Non ti criato, è un di la vecchia ganapa, ha un cornicione da giudito. Allora, gli possiamo lei tanto il cornicione, tanto gli ho passato lo buco, e quindi il dolore non ne sente più lui. E non ha detto manco va. Allora poi oggi è tutta la via a terra. Pare che sia offeso, non l'ha già fatto nulla. Come la buraiata, mi faccio gente, tanto il cornicione. No, ma io ti dico la verità, ma è una maraca. Io poco tempo fa ho passato a fribirmi di freddo e sono stato a letto, sono bruciato. Da voi mi sono ripigliato un poco, da voi cosa, eccetera, eccetera. Beh, lo sai che adesso sto cominciando a sentirmi bene. Ma bene per me. Secondo me che marasù ci ha già passato di strano io. Tu sei di strada, fai un lavoraccio, hai intemperie, è freddo, poi sudi anche perché ti muovi, lo so, boom boom boom, ecco, via, devi fare, devi bere, vai, sali, tira, molla. È un lavoraccio il tuo, Antonio, è simile a quello che facevo io prima. A capo Eva, a pelle a moglio, sempre tutto infuso, capito? È così. Quindi la tua già può essere un sintomo influenzale, però in una maniera talmente diversa che non può essere chiamato variante Covid, capito? Chiamiamola così, ma non fa vedere chi è Omicron. Però è diversa, ma chi ha i sintomi veri e propri di febbre, perché l'aria c'era quasi 38 di febbre, 37,5, 37,7 in primi giorni, poi non è più venuta. Ma mia figlia ha una patologia molto dedicata alle ossa, che era artrite reumatoide, quindi mi ha risentito subito dei dolori, capito? È chiaro che è la cremata. Guarda che io ero così, non ho aggiunto niente a nessuno, ma io ero così, quando mi ha preso proprio, va via 37-38 di febbre, no che ero, non sono vicino a nulla, cioè, ma sai cosa vuoi? Cioè, non ve la fazia via a travagliare manco. Cioè, mi sta sentendo tutto, c'ho un pochettino di tosse. Cazzo, ma mi sento un'energia, sta oggi lavorando, cazzo mi suravo tutto. Non lo so, mi pare che io mi posso fare canale, se. Santo, è in casa, hai contagiato qualcun altro tu? Ma cosa ne so, come la mia megugnata, per la via che si intende amare, non la stessi. Anche dai nonghi. Sara no, Sara ce l'ha avuto per qualche, beh, non l'ha fatto niente. Non lo so, comunque io tutt'oggi mi sta passando tutto, ho preso anche la bici oggi, cioè travagliando oggi, tra ieri e oggi c'è una potenza allucinante nelle mani. Non so chi marasorsi è, però. Tanto vorrei avere mangiato spinaci, se lo tighi, a dove lasciare, non fatene di queste cose. Ma e poi dimmi una cosa, ma hai svuotato tutto il garage, hai messo tutto a posto o ancora non l'hai fatto? Ancora non l'ho aggiubato, devo chiamare a Paolo Maiale, mi ti posso buttare un po' di roba che mi ha già girato, lì non te lo voglio dire. Vabbè, lì appena liberi tutta quella roba c'è molto più posto, insomma. Quindi toglila, anche la bicicletta, quella roba lì, capito? C'è molto più posto. Avanti, Lucariello. Facci riportare a tu, un po' maiale. Raga! Facciamo il furgoncino, ho visto adesso. Capa! No, già, è un gurnoci tu. Ha fatto anche qualche viaggio per noi, ha fatto con le bombole, gli davamo le tintore. Quando c'era la macchina rotta, però 4 volte l'abbiamo chiamato a carica bombole. Ma che era io? Grosso, fa i viaggi, fa. Se siamo così, Paolo Maiale di cognome. No, a me infatti tutto fratello. Anzi, adesso fra un po' lo chiamare, mi serve un viaggio di ghiaia, di sabbione, là. Devo mettere nella strada, a parte quei buchi che ci sono, e poi mi serve un po' di materiale da briccone. Devo chiamarlo per forza, Stefano mi ha fatto tutto lui, trasloco, carichi, controcarichi, abbiamo portato, siamo andati a comprare da poco, buon nominamento, siamo andati a via del produttore, l'ombrellone, quello grande da giardino. Poi alla fine andare a mangiare un altro, poi se ti serve più cose, devi cambiare un metro più grande, capito? Ma se siamo ingazzati, a mangiare uno che conosci, capito? I motocari vanno bene, sono la stessa di vecchio, poi magari non è detto che c'è solo la stessa di vecchio, magari qualcuno vuole mezzo metro cubo di sabbia, si chiama motocarro e da mangiare, come hai detto prima, un amico, un conoscente. Mi sono messo cubo di sabbia, amico Stefano, hanno invitato la gaggia, avevo una 40-50 scatole di cartone con tutta la roba dentro, tabella ordinata, tutti chiusi, abbiamo fatto più un viaggio solo di quello, poi tutto abbiamo portato con Stefano, tutto. Abbiamo iniziato alle 9 la mattina, sino a dopo pranzo. Poi dopo un paio di giorni l'ho richiamato e abbiamo svuotato la mansarda, abbiamo fatto altri due viaggi anche lì, poi l'ho chiamato dopo un'altra, due o tre giorni allo special, mi ho svoltato tutto il garage di mio cognato, in via San Francesco, un'altra casa, poi siamo andati dal portoso a prendere l'ombrellone con quello grande da giardino e ne ha aggiunto, già l'ha aggiunto, già ce l'ha piena un po' quella busciacca, vabbè. Ho capito. E beh, cioè, fa cambiare che la chiamano un altro e è preferito chiamare lui. Avanti Franco. Guarda, vi saluto, mi guardo un pezzo di partita del Cagliari, mi sa che sta giocando il Cagliari adesso. Bocca al lupo per tutto, speriamo bene, vai, avanti Anto. Cappa, ciao Fra, ce la risentiamo. Cappa, comunque c'è il Ford Transit disaccomparandomi, chi su manno? Chi su garringheggia a voce? Ma non lo so proprio che tuo fratello fa sbagliare queste cose. Ciao ora, ci sentiamo, amici, un cazzo cagendi. Ci sentiamo, ciao alle prossime. E anche io mi ritiro per deliberare, dai. Me ne vado un po' da Sanone, guardando un po' di TV, che oggi esatto hanno giocato abbastanza. Ciao Antonio, ciao Luca, Franco, chiunque fosse in ascolto, tranne i malandrini. Ciao, e prendi Ugariè. Via, ciao, ciao Franco. Cappa. Ma tuo fratello fa questi viaggi qua? Il fratello di Luca, sì, Stefano, c'è un bel motocarro, rimorchiabile, sono lungo, mancati di roba, tanto che sono stati davanti dell'armadio, abbiamo smontato due armadi grandi, due basi, sono state le ante del letto, tutte e due, abbiamo caricato i materassi, tutto, abbiamo pulito tutto, abbiamo messo il suolo sotto, caricati i materassi, tutto, abbiamo portato tutto, lampadari, fuori il letto, vabbè, la cucina, tutte le altre cose, era tutta roba nuova, però quello che ho potuto portare via, l'ho portato via, capito? L'ho recuperato, il letto l'ho lasciato lì, ho lasciato quella che ha comprato, la cucina, quella grande, perché qua c'è l'angolocultura, quindi è stato fatto apposta. Ci hanno lasciato roba, e io voglio. Capa! Vabbè, è una cosa travagliando. Ma cosa va? Latte va? Cosa va? Sì, latte e poker. Sì, latte e poker, cioè, è bella, una bella macchinetta, funziona bene. È una pulvolta, perché l'ultima volta abbiamo caricato, abbiamo portato i due divani grandi, il cazzo era a tappula. E andaia! E poi come ha detto Luca, io stavo cercando uno che me lo facesse, capito? E quindi mi ha dato il numero Luca, mi sono messo d'accordo, senza viaggio né niente, quanto vuoi per fare questo, tutti pronti, non problem. E poi i viaggi extra, quello che magari prendeva un altro, ma mi scontava per dire, mi faceva uno sconto di 10 euro, però mi hanno fatto fare un bel viaggio, un bel. Anche da poco l'ho chiamata, adesso devo chiamare altre due o tre volte, mi serve materiale, c'è da ritirare materiale da Desole, c'è da ritirare materiale al Brico, ma devo portare su uno di quei camminetti prefabbricati, capito? E io non lo dovrò fare ancora. Brava, con travaglia! Io travaglia, Stefano, non ti preoccupare. Quando l'ho chiamato io c'erano tre o quattro appuntamenti. Quindi abbiamo fatto una male tocca, Tito vuole muovere, poi anche alle 7, alle 8, non c'è problema, ok, così arrivo qui, mi vuole un altro viaggio, cioè ci si organizza, non c'è problema. Beh ragazzi, vi saluto, vi abbraccio, vi tiro e vi ammiro, ci sentiamo domani, ciao. Ciao, ciao, ci sentiamo. Ciao, Fra. Via, ciao, Fra. Bruno non vive più con voi. Di... Ma ammetto che prima avrà Buruetto. Sì, cazzo, 30 anni fa. Quanto? 30. Ah, io pensavo che... qualche 10 anni fa c'era ancora il Kiwi. Quanto? 10 anni fa. No. Sono perché c'avevo 23 anni, la figlia. Ah, e allora? Vabbè, gli ha dato passerà sicuramente. L'unico che è il minore, così. No, il medio. Non ho capito, Anzu. quello che vive con voi, cosa è? Il mio... Non è il più piccolo, sei tu, così è. Secondo. Io sono più piccolo. Stefano è penultimo. Carletto è il terzo. E il mio mando uguale. Giovannino, non lo conosci, di Sorso. Abita a Sorso, va. Ma quanti siete? 22. Quanti siete? 22. 22 migliore. In 5 siamo. No, questo Giovannino non l'ho mai visto. Manca quasi 30 anni da qua. Cappa. Poi per Carletto. Sì. A Carletto già lo conosco. E tu sono più minore. Tutti maschi, cazzo. Eh sì, a tutti maschi. Cazzo, ma quando si spazione che fa una suretta, lo so, purtroppo. Cappa. Ora. Ragazzi, c'è niente sta cosa. Ah, è un giro di vitti. Casino, non è un casino. Adesso vediamo, domani richiamo il medico di nuovo, vediamo un po'. Se mi danno anche una stanza me ne vado da qua per i giorni, chi se ne frega. Chi se non si può fanno? Ma qua non posso stare Antu. Mio padre è un soggetto fragile, capito? Cosa fai? Rimane in strada. Se mi danno una stanza, qualche parte, da qualche parte, qua non posso stare. Se si va a prendere mamma, ui, è la meglio buona, sì. Marina, no, hai paura che la contagi? No, la Marina è impossibile, perché lei è negativa. Lo so. Qua ci credi pure contagiata, me. No, c'è un po' di febbre, quello sì, ma è negativa. Cappa, ma secondo me non rimane nulla. Sai cos'è? Che il vaccino non è entrato in circolazione, non è entrato in circolazione ancora al terzo. No, ma cosa cavolo è questa cosa? Che cosa? Che tuo vaccino, cos'è? Cosa anda? A lei non anda. Cosa ne so, Bubu? Sono ignorante in materia. Cappa, boh. Cosa fai? Boh, io non ho già segato, se no t'avevi tu vai di Nigive. Così no. Io non ho bel coffee, vuoi andare? Ehi, siamo paganieti, sì. Cappa, cosa puoi fare? Non tanto, non lo so, fatelo domani, vedo un po' cosa posso fare. Dai che sono rientrato, hai giocato una cosa al lavoro, così hanno già approfittato e mi hanno sbagliato un mosso. Anto, ma ti volevo dire una cosa, una domanda un pochettino, se te la posso fare, se no non va bene. Dimmi. Vicino onde sei tu, l'hai mai vista tu che era una cinese minorete, Alfa si chiamava, che è andata via con due gestini in mano e più che assolutamente non ha potuto. La giubita da una sabbatti, sa. No, ti volevo solo chiedere se hai giubito, sai cosa, che io non l'ho giubito, vista, è da voi, era partita in Cina, che da ogni anno qua in Cina, no? E rimane un mese lì, e poi ritornava. Invece la guarda, quando si stessa di cosa, non la giubio vista, ci sono andato buru cacatra bassona in Givi, no? Vabbè, uno me l'ha detto tragico, ma ha detto no, che cosa che sei, ma vai, grata, ma cosa cazzo vedrà, non è che c'è decine di moglie, cosa cazzo vedrà, non vedrà un cazzo. E da Sardia in Givi, no, a oggi di stazione, in Givi, no, l'accompagnavo io, perché lei quando era a Porto Torres, qua lunedì e il venerdì, rimaneva giù con noi, e poi l'accompagnavo io a casa, che veniva solo con me, che macchina, ora se non lo usava. cioè a chi l'altro Gerusalemme come ti so, tanta gente che non può prendere un cazzo, c'è cioè, un amico deve essere amico, non è che cazzo, a chi è femmina te la rimagna, dai, ma per carità, già cazzo visto ha travagliato tanto tempo tornai, no? E niente, no, vabbè, a me comunque non me la frega con cazzo, la veniva mi con noi in individuale e poi l'accompagnavo io. Invece da quando stessa di che cosa, la verità è non ragione più, qui c'è ne più intesa e niente, infatti la sette vuole domandare, no, arrivo sì che magari non rimani in Givia, no, non uscirà più. Non lo so, no. Forse... Ma cosa va a dire? Cioè, cosa voleva venire roba? Cazzo, secondo me... Non me ne ammetta assai. No, due gestini, va via, dentro verano gli accendini, poi dentro l'altro zeno verano i piri, verano i cosi. La roba forse ve la via lo zeno che va via, vede va via due gestini, uno un braccio, uno all'altro e l'altro zeno a curva e quindi da voi andati a Alghero, andati a Tempio, a tanti giubi da sempre in giro, invece Luni e Rubenna rifarava pure d'ora. Ah, ho già compreso, allora chi sa cinesina veniva da noi, quando va via a un negozio in via Diaz, mi ha dato passava da noi, passava, state sempre in giro la zia. È una zippetta minoretta, infatti ha detto, ma se la Gesù mi ha dato la conosce, no, a titolo di cose così, non è che mi pensava più di tanto, così. Ha detto che strano, ha detto non si è fatta bintini più nulla, l'altro telefono va più pure un numero, so, ma vai due cazzo è, arrivi vicino ai Givi, parli in Givi, o io penso che si pioccani, cazzo, a chi una volta mi hanno detto, una volta mi hanno fatto il telefono, non è che ha telefonato, che si è mai accettato il conto correndo, a chi dice no, ma tu non dovresti chiamare un vizio, dovresti fare un altro numero, dovresti pigliare una scheda per all'estero, ha già compreso, e hanno aggiunto di cosa, cazzo, ma che città, cazzo, è un comodo, è porco Giuda, cazzo, ma tu lo sai che io, va, passata da una ragione all'altra, dovevo comprare un apparato, no? Una cosa bella, buona, eccetera, eccetera, eccetera. L'unico problema, tu lo sai cosa, che quando arrivi dall'America, da qui arrivi no che in Italia, da poi paghi tu dazio, è un altro po' che ti goccia, più che tu che dai edi, che ti nati l'apparecchio. Ma bella cazzo, ma a me che siamo buci male, a vero, me cazzo. In Germania l'altro che arriva e non pagano un cazzo, arrivano che in Italia ti cogliani. C'è proprio Zemmo, guarda, lascia perdere. Andate a burro in America, mi veda. Da edi. Che ammento io così comunque quella persona lì io me la ricordo perché è stata sempre in giro ma è parecchio tempo fa, ma io da un bel che non l'avevo più me. Sì, da un bel tragitto, da un bel io che non l'avevo più. Io vedo un bel che non l'avevo più, però da voi, da quando si è salito su fatto di seppi di mezza cosa, boh basta, proprio non l'ha giù, né vicina né intesa. Ma chi sono mi chiamava. E mi diceva un dia andati a pigliare, a bere un trip, ci accompagnavo a casa io. E a casa io ho detto, boh, non ha più chiamato, più nulla. Niente, se è rimasta in Givi e non è più giunta, che magari non ha possibilità di venire. A chi è andata in Ghida a venire, a chi vede un giorno delle studenti, e da dire, se rimane in Ghida, non va via a travaglio, non va via nulla, muoiono i bambini praticamente. A chi va per la mamma e la invece. E da dire invece, venendo in Oga, travagliando di così, riuscirà. A sapere e a fussare, di là in Ghida, e se viene, ma fa studiare un giorno, e un giorno è studiare tutt'ora. Sì, ho capito. Non lo so, sinceramente, insomma, come va fatto? Ora mare. Te canta la cosa, te canta il pulsare. Ora un rintore. Ah, una pulsare. Baggio tutta canta la cosa in fusa, baggio. L'intore di forse. Lucernaio vengo dai nonni con la burla luna infatti non è... No, ma infatti è l'intruente la noccia rimane aperta. Boh, io non ho mai visto questa cinese quella di colore sì, ma non la cinese. Già me ne ammento io già. No, chi c'è proprio cinese tranquilla, no, una brava persona amico. Io me ne ammento come di chi sa che vendi accendino, mi dico, ma guarda, non ti voglio dire una cazzata, minimo sono 4-5 anni che non la vengo. anche la Bru Chiugesa, una brava persona, io, cioè, lei era sempre in giro, con di soggavolo, di cose, di culo affiancato da voi, sicuramente, a che cosa cazzo, abbigliava fredda, abbigliava apposta, abbigliava tutto, eccetera, eccetera. E quindi quando era giù a Porto Torres e poi la facevo rimanere lì con noi la notte, poi rimaneva a cenare con noi e poi l'accompagnavo io, l'accompagnavo a casa e niente, poi Ruben e Dora quando giocava a fare la sera era sempre in giro, un capo all'altro, però non era lì di bastoni rompiballe, che ti si attaccavano proprio a tutti i gocci a comparare, no, si fermava, di eseguire che cosa, eccetera, va via Buru, Filotti, Maggio Battarriga, cazzo, un coso da... E la mano, cazzo, un tubetto d'estratto, te lo sai, è una medicina per dolori, tipo la Lugosunoso, come ti cazzo si chiama, il Voltare nostro, no? Però questo qua è a base di erbe, di cose, infatti quando ti lo passassi, niente, non te lo coso, ti fricava un bel... E queste cose sì, perché loro usano erbe, non trattano i mattessimi di zeni che trattano noi, di sottilante a base di erbe, di cose, cioè, e dice, ma cosa? Ma arriva la fattiglia, cosa che sta la fattiglia, che non può essere, ma vuole mentiera. E per quella di Riccardo abbiamo passato in cazzo in altro giro, ci dicono che era appena caduto, mi ha detto, ha detto, che non collodiamo subito, io dice, cazzo, ci cazzo per vedere, ma prende all'anca, dice, cazzo la cosa, buono a vedere. E invece già funziona, loro sanno come fare. Lei era brava a fare massaggi, infatti tutta l'estate lavorava al Ghero e faceva, ma però li fa nella spiaggia, non anda in giro per i casi, no, assolutamente. E a Chiara Bui la musica era sempre ghida, mentre avviene in giro, guardiamo subito il gruppo, non andate a bere. E allora Edda dice, se arriva un massaggio te lo porto in mezzo a tutti. Ho capito, non l'ho mai vista, non lo so, era una palla, io non mi ricordo di questa cinese. E la cinese sono in gamba, là, poi ci sono quelli insistenti, comprare. Ma non ti voglio dire una cazzata, al minimo saraggio, un zincanne che non avevo. Può sì, però no, di manco, io so buono. Più o meno così sarà, no, forse 3 anni. Forse un tre anni, è vero, forse invece un 3 anni sono passati. E beh, penso proprio di sì, va così, perché se per non me lo ammetto, però allora forse sì, 3 anni. Ah, io di più, dico la verità, di più. Ma davvero no. O se ne rimaseguivi, o se no, davvero, può essere successo pure un imprevisto a me. No, insomma, allora lo so bubazzetto, io ho visto, io le dico, ma fa cosa non ti rimani? Una volta di sei in ghira, che era paga 1.000 euro paga per andare a casa, mi viaggio, 1.000 euro diciamo. E le dico, ma fa cosa non ti rimani? E da dici, cosa rimango a fare? Lui mi fa, non è così. E dici, sono bubazzetta, vai forza, vieni in ombra. Una volta che mi videova da voi diventa dottori, a questo punto sarai due accampazzi e quindi mi rimango in ghiera, che magari non sia tutto sicuro, chi mi ha fatto la fotografia del figlioro, quando in ghiera aveva vinto un concorso, un'altra cosa, in ghiera. E la gente, ma che fa cosa non vedo io? Invece la famiglia tua, la bella mamma, e vieni da Enoga, visto che tu vuoi fare il travaglio, vieni da Enoga, ci vieni da Enoga, eccetera, no? Invece la bella mamma ti anni vicino, no, non vuoi anni venire a Enoga. E da Buglia Buruscia, però ha detto che ci dovrei dire che non mi vedo. E quindi ha detto, papà, detto, magari sarà pure bagliato. No, non laggiù, non me un bel voci, cioè a Sassa di vatto spesso, e niente, quindi non mi è manco capitato di vedere, l'ha già domandato un'altra che conoscevo, però sicuramente sono giroso, non era che non ti dicono nulla, no? Ossia che si dicendo qualche cosa, e ha detto no, un'amica è nulla di coso, e poi l'ha già detto a dirlo a un altro, a uno di chi si comanda, un poco a vedere, no, nulla, l'ha detto qua, solo manda gli saluti, quindi non te passa, ma non mi interessa, non è che ha visto che è una persona per fare del male, assolutamente no. È un bel strano, insomma, questa gente, sono sempre con la puttana sotto il naso, sono un bel particolare come ti passone. Casino è tuo, è un casino, tutto un casino, oh, a baccheggiare, baita, mamma mia. Chissà come ti cazzo sono i buchi e ti buri in ghivi. A chi in ghiva lo sai cosa hanno fatto? Lo sai che gente che ha protestato, che ha fatto, che manda i cicosi, che non ti dice i cicosi, non hai visto cosa è successo? Sono andati a casa sua, li hanno investigati, li hanno arrestati e non si sa che fine hanno fatto. Ma siamo voi d'accordo, in Australia invece hanno imbigliato, se imbigliano la mezzogarina e si buciano in ghivi, ti sarrano i 6-30 di container. Hai capito? Cioè non vuoi assolutamente che tu fa vedere questa cosa. Ma sorci niente anche. Cosa ne so, può darsi che magari sono un po' in magliette, può darsi che sia un po' sia una qualche anno di la figlia a Napoli, se capita gli mandiamo i saluti e se no ciccia. È un bel casino che si rompe. Sta attenti, non puoi far bidare queste cose, devi stare buono, tranquillo. Sono mare un bel. In chi non deve rompere il cattolo, non deve fare un dogo, assai. Se no vedi, brevetti hanno di tribuca, non sai manco di. Non vedrò più a casa, no? Ehi, se ti sono così gente. Chi sono andati, hanno brevetti anche da sua, bomba, che non si sa che fine hai fatto. Ai genitori hanno detto che siamo muti e basta, e non ti sa anche io a protestare, ma dimmi tu, ma io non ne so come cazzo sei mai arrivato, non si ne è mai vista di questa cosa, cazzo. E più se mandate, e va così che è, ma dove vuoi trattare pure non per l'Italia. Che infatti ha detto, ma tu devi divenire, tu però devi divenire, chi sui altri quanto è il cugino dell'aino, no? E dove ne nonga, io rubiglio, lo sarro impara all'aino, in ghivi, e poi veniamo a vedere se come ti dico, vediamo da brigare l'aino. Miserabili bastardi, cazzo. Capito? Poco fa vedo anni vermi, vieni. E non devi fare l'altro, cazzo non travaglia la vita. Cazzo, 40 anni travagliato, 31 di 2200 euro. Chi si cazzo travaglia in 30 anni, busati in poltrona, non tronca in desirosi, no, busati in poltrona, cazzo, comandenti, no? Si andano a casa e si pigliano i 15.000 euro al mese. Ah, giusto, no? Ah, ma sono i pagliacci, so. Dai, avanti lo. Ne faccio. Ma dico la di merda, va cazzo, mamma mia. Riesco anche a parlare. Ti capisco. Ma pare che passa tutto, poi. No, veramente. Ma chi se si intende? A chi su brunetta si intende? Eia, e allora? Sai quanto di coglioni in laino. Ma non l'hai visto? Dai, ma quando mai cazzo che sta di venire a comandare a noi, eh? Io dico questo, una vita attribuata, travagli come se non arrivava, tanti e chi sono fatti di può pigliare un letto? Ma io non la faccio a comprare, cazzo, vai da una cosa vola da noi. Ah va, ecco, lo sai cosa effetti? Chi lo usa battendo i vari vaccini, fatti attenti cose, no? E lei lo sai cosa effetti? Tutto quanto sono preparato, tutto quanto buono microchip. Ma io ti trovo in culo un microchip, cosa cazzo? A chi dice, ma cosa cazzo me ne frega a me di questo cazzo? Ma ti pare, ma ne auguri di finire con questi sciabituri, sì o no? Ecco perché prima ho detto il discorso dei vaccini, di chi ci vede, chi taccio. E a me cosa cazzo mentre ho fatto un microchip? E ti lo buono, io ti ho detto, io non me ne mongo, ti lo buono a chi te ne tieni. E allora tu di casa noi, se allora tu in chi vino ventri, e allora tu in chi sono andato, e chi taccio non andava. E vabbè, alla fine, piano, quanto hai fatto col vaccino? Piano, e sarei costretto. Capito? Ma è chi mi basta fare la abitizione dei nomi che ti rubano i luci di ti rubano. Ma fa io non lo voglio e non lo voglio, se tu ti dici che non lo vuole, verrà che non si ti sacca niente di cui. Esatto. Però tu vai chiamare di farlo tutto, però se noi non lo facciamo questo qua, allora lì che arriva, anche a quello arriverà. Cioè anche di tu, quando è cominciato il 4-4, ci sono gli avanti, ci sono i partiani, ci sono i partiani, ci sono... Meglio allora siamo arrivati e ci stanno i bolsi uno contro l'altro. Dai, per favore, cazzo, vabbè, comunque forse ne mette qua di piazza, io sono sempre di chi ti dà, vai, dai, no, cazzo, va, di tutto quanto, qui, tutto quanto, fatto un ricopo, solo fatto, solo esclusivamente, fa fuori un po' di niente, come faccio, solo a quello serve il mio pubblico. scappa, e poi sono tornando in un vattene di voi, lo vaccino, lo sai? No, no, no, Antonio, non lo so, credimi, io proprio non lo so, no, no, qua non so nulla, nulla, nulla, nulla. Io le poche cose che era, gli antichi vengo così, quando veneno con il sogheo, qualcuno al telefono, così, no, non so più scendere, non so più andare in sul luogo, e Vittorio dice ai miei zaraglietti, quando esce ciò che non li posso fare manco, venga anche io dare i baci tuoi a chi, che hanno mi serve che cosa, che noi non avevamo nome, devo dire, per tutte le via, così come te, vabbè, è sempre stato così, noi non abbiamo un cazzo, e venimo a salsa, insomma, a prendere niente, ma è a salsa di esempio, dai, non è che... Purtroppo è così. Cosa andi da base per ricambi con pareggio? In Oga, buona bacchia da quelli dei negozi, da Trento, Sassari, l'hanno bruciato il 30 predanese, quindi quando, quando serve una cosa serve in giro, insomma, dai. Spesso e volentieri basta, va, va, va, mi faccio un periodo, mi sono cazzato un pochino, da mando il padrone, che accoppia di lui anche in Oga è un casino, non lo voglio usare praticamente, non metterà niente, capito? Anche perché non devo dare spiegazioni, non devo dare nulla, la musica è sempre guida, un discorso nuovo alla mia ciamba, e non me ne frega, dico a quale, di biglietti, la riga mia e basta, e quindi ecco perché ti ho detto, no, non esco, non so cosa più, quindi tanti cosi, la ragione di Ginoca, non so come, ma sapete come te li sapessi prima, prima ero sempre in giro, capito, non ero andato lì, ero sempre di puntino, sempre, in tutti i luoghi, ero sempre di puntino, questa, in preghiera, nata, ogni arimi, non me ne ha più nessuno, cazzo, non l'ho preso. E invece va, no, dove vuoi andare, dimmi dove vuoi andare, perché non sai mai con cosa fai vicino e con cosa chi fa. E poi l'altra cosa che fai, ti remani con una tazza di cose e c'ha la patente. E così sono capoce di tutto. Vaffanculo. Cioè io devo vedere, mi dico un litro di vino, ma manco lo bello mi tocca, credo che so che rimango uguale, tale, quale, non c'è un buco, non ho mai rotto un bicchiere, non ho mai rotto quello a nessuno. Tranquillo, fece e paglia. Redì, barzelletti, buffonatori, c'è un maricoso, gli usi che si guarda. E boh. E oggi ti vemmani, tu mi vemmi a me con una data di cosa, cotto, mi devi tirare la patente verbale, mi vemmi la macchina, mi vemmi, capite che la situazione è buona, quindi è tutto un disordine, tutto un casino, cioè devi anche valutare le cose, capito? Cioè, una di, mira di che ci accompagna a Duaeta, lo sai, vedi, il bus di blocco, a Occia Corte Santa Maria, quindi era in alto distributore, uno a sé non lo farebbe. Allora, a tutti i costi, erano le tre di Manzano, a tutti i costi che ci ha detto, ha bevuto? Ha detto no, come non ha bevuto? Adesso vediamo, soffi qua, boh, giù fa del vicino, no, deve soffiare più forte, l'altro si incazza, l'altro si incazza. Ma ha capito che se qua non soffia, non esce, ma forse ha detto non hai capito nulla, ma ti interessa anche del va bene, se ti aspetti, vado, cerco qualcosa aperto, bevo e poi ritorno, ma che cazzo di scorso devo prendere? E tu lo sai a chi è andato, a quanto come ti è andato, a chi fai, a chi sei in macchina, lei è quasi matta, che non li buia più, se mi controllano solo sono un casino, ma fa Roma e gare. Hai capito? C'è un suo mucchinoso e facciamo i guglioni, imbecilli che non si altro. Cazzo, chi è ragazzo, mi prega che c'è ragazzo una tazza di birra, vai di una fanculo, ignorante che non si dà, cazzo. Ah, ma voi non avevi visto nulla, alla fin fine. Ma sono niente ignorante, insomma. Già me la se ne buniani, la pattuglia si bunia, in oggi da voi l'altra, come ti dici, l'altra si bunia qui sopra, vicino ai vigili del fuoco, cioè saluti baziani, vera in oggi vera un gozo proprio, e le pattuglie la tentai. A chi ne sia, la discoteca ti bizzicavano, compresa chi sono? Sì, ma tant'anni fa, tu fatti un conto che tant'anni fa noi eravamo sempre in giro, no? Sempre in giro, in ogni rocco, ma ti si va via, o se si va una pochettora, o chi di no, che si andava bene che già, o fa una cosa a pallaccio, via su, sono in giro, ai centini, o Alghero, insomma, sempre in giro. Andati fino ad andare tanto, la musica era lì, ti sei fatta in mano, cosa abbiamo andato a fare? Abbiamo minerare a andare giù, ma siamo vero buffonetti. Io non lascio vagoni a dirti queste cose, a chi vede gente che no quasi bua, o se il gruppo di no, dice ma vabbè ma non è mobile, cosa cazzo devo andare a fare? Cosa ci devo andare a fare? Ah, va bene, dice, ma in paese mi dico che avevo un rubinetto, ma se ma avevo un rubinetto. cioè si inchina, chi si infessa, tutto e passa. Quindi la notte quando si inchina un cappalazzo, minimo, senti un vignolo, senti il lascio, due fate a revisare, due cose, o come ti devo dire, due giochi meno, e cosa vi inclino? È così, c'è poco di girare. Sì, la gara se ne ha abbigliato con due, e Burrell ne ha abbigliato voi. A ridico di Mazzano, l'imbriaghiera, a gara. E penso che l'ha già arrivato un po' tutti. Ma tutti se ne negano, si anzi, vabbè, lascia perdere, va. Se sei uscito era così, ecco. E boh, non verrà. Non c'è la storia. Però sempre non guidando niente, cioè, quindi mi accompagna sempre, compreso, ma non aveva problemi, vabbè che io no. La roba di cottura mi ha giubilata, adesso sono due o tre anni che non mi piglio una di chi si cottura, ma di chi si sonori. Da chi non so come andando a lungo, cioè rubo come andare un circolo, cioè, cioè rubo come prima di scia, andava in discoteca, a Padà, quando di scia il trinco di Manzano, Sant'Antonio di Saipati. Sì, non hai capito, ma io ti so così dicendo, è normale, io questa cosa la vedo normale, è normale, se uno esce, ma cosa esce a fare? Esce a fare, anda, cazzo la miglia, cazzo di cose. Chi anda a rubare, chi anda in un circolo, chi anda in pizzeria, chi anda in un luogo, chi anda nell'altro, la musica è sempre guida, chi anda nel puntino, è sempre guida la musica, non c'è niente da fare. Fessa è buona, purtroppo. Grappa, sinceramente mi faccio pure una canna, mangio di durra. A Roma sta a farmi una notte, commenti dei vecchi tempi. Cazzo, mamma mia. Ragazzi, sarà di noi, un po' caro circolo, un po' come. Però, veramente, una noia, cazzo. Prima quando ti sciami, vamos, cioè. La giuragana, ma è tutto, cioè pare che sia sempre in peggio. Cazzo, non andiamo in giro, noi non veniamo bene, era una festa, guardiamo il motor raduno, era una festa, e la cosa cazzo, va, ma che cazzo mi andava, la paese, la carità, cazzo, a me lo crebbe un altro, cioè, c'è gente che fa dei disastri, ma anni non li fate un cazzo, ma la tengo da sei cose, ferma subito, la bacio il giornale, fermato, riacco, con il tasso alcolico, se magari è filmato un periodo che frequentava in chiesa del battito eccetera, l'avevo copiato la macchinetta, non vedete che si imbriaghiera, ma imbriaghiera di più, a livello di riposti cazzo devono riuscire, manco in piedi, ma mi dice la cosa, dove vai? Cazzo, eppure ti hanno filmato un medico, non sai mai, avete bevuto? Penso proprio di sì, cazzo, non ho compreso, e le riuscissi, insomma, beh, ormai, cazzo, un attini, che voce un verbale, a chi, la lampadina illuminata, a chi la commedia, che cosa deve dire di papà in fuori? Vabbè, ma è di lei, ma attento che si toccava, è capito, le ciabatti, i vemmani, poi, cazzo, pare che hai combinato chissà cosa. Purtroppo, ma gli antiguasca, che ha combinato disastri, che si veniva niente, che faceva sempre seria, che cose non l'ha fatti. Sempre così andrà a finirmi, fa colpa dei cretini, fa delle leggi. Certo, però c'è da dire anche questo, perché c'è il pro e il contro. Le migliori, gli nipoti, eccetera, no? Imballati ciechi da mangiare una serie, imbriachi, rompendo i guglioni, culendo tutti gli altri luoghi, le macchine, se andiamo a vedere, no? Quello non lo dicono, no? Mi sono sedocca, non entra nulla, a chi dice che ne esce dalla iatta, l'ha attraversato la iatta, a chi l'ha attraversato la strada, non so quale, invece non è vero un cazzo. Macchine distrutte, gente fracassata, infatti tant'è vero che pure un video della russa, quando è giunta in opera, che voleva entrare dentro una discoteca russa in chiesa Santa Teresa, che voleva entrare senza bagaglio, con un'imbriaghiera che non ficchia dritto, c'era il figlio di Ignazio la russa, a me dovevi la gatta, quando mi aveva detto, prima grazie alla russa, grazie a tutto un pugno a mozzichini, grazie a che ho fatto fare il dolce, vai, lasciami il buglione dove va butto, vai, fai che lo biglietto vuoi all'altro, hai capito, non grazie bene, anch'io, no, che ha fatto pure a noi, ma com'è che non l'hanno fatto entrare, la verità, i vecchi l'altro l'hanno firmato, in Antalya, in Antalya, metropolitana, hai detto, dici lo biglietto, dici, ma io sono un biglietto a ora, non ero un biglietto, grazie anch'io si è appigliato il papo, che non era un caso, vogliamo cercare anch'io per operare, rompere il guglione, no, non è così, che li paga uguale a noi, a chi vuoi, di nada vedi, no, canti noi, no, a senza di più, e invece di pagare di noi, ne abbiamo fatto pagare dentro, subito. Certo. Ma come non l'ho fatto entrare? Lo pagliano di rato, lo pagliano. Ma carità, cazzo, tu vabbè dai niente la russa quando si muove a fare con questi imballi che si piglia. Io non l'ho visto, non l'ho visto. Cazzo, l'hanno intervistato, domenica, quando per essere fatto un copo, scende da una via, dice che era in una locanda, sono andato a mangiare una locanda, cazzo, e gli ho fatto vedere, sono soddisfatto, cazzo, gli ho fatto vedere il green pass. E lei più cazzo con la bocca, tra l'altro è impassata, non riesce manca a fare. Hai capito la mia condizione? Ti fai male a te, cazzo, se ti cominciavi male. Poi a pacchetta, già ci compri il giocare. Pacchetta, no, veramente. C'è sempre quei droni, Cazzo, ecco la che siamo comandati. Vai, ci me la guru, vai. La cazzo, oia, Gesù, Maria Giuseppe, vai tra. Sono stati disgraziati di chi viene prima, ma chi che cazzo, ma chi che è una cosa che non si... A me mi dà giocando il becco, poi da mamma mi dà un cazzo. Vai, porca miseria. Ma non mai, cazzo, tu mi devi darsi un esempio, devi darsi il cazzo. Ma non ti sei visto. Ma non mai che tu non si rende conto, buca non a casa sua. Tu non sei guaio. Passa e dai, no ma pure che taglienti, pure così, no, non vale niente un coso. Allora prima sì, erano come te erano, però erano manco studiati, erano, e capivano di più il lavoratore, capivano anche, cioè ci viveva meglio. Ma sono più studiati, più tutto e sono più maniaci di prima, cioè sono proprio niente che ti può furare di là, gentaglia proprio, ma dai. Ma tutti quanti che si magistrati che hanno combinato tutto quanto un casino, non hai visto che sono stati denunciati per falso, cose pagate da falso, ma tante cose, no? Hanno colluccato un sacco di niente, con luoghi di travaglio onde non riducava, ma di toccava a te, allora ne dato un altro, capisci tante cose. E non è che gli aveva soltanto tanti denunciati e non rifatti nulla, non tocca né stipendio né nulla. Hai capito? Rimane indagato, rimane, ha detto, e segnalato la magistratura tante cose, però non le puoi toccare. Ma se è vero, buffone. Ma se ne paga due, te devi pagare, te non ci devi pagare io, no? Queste cose non puoi vedere, ok? Sono più mafiosi dei mafiosi, insomma, sa niente. Cioè, e non arrecani nemmeno con di cui dritto, la tribù immagina. No, dice che non si può fare. Non si può fare proprio. Non li puoi non arrecani nulla, bravi, mi fa piacere. E tutti i cazzi della carne furato che fino a fa, piglia veniti e dalla ribovoli. Piglia veniti. E io quello che ho sempre detto, piglia a chi sa niente così che fura i fatti. Io non ho detto che li posso niente. No, li pongo a travagliare, mi ripongo la pesce che va, bene a travagliare, bene, travagliamo un travaglio pesante, così provi cosa vuol dire a travagliare, no? Se viene a tutti, viene a tre i bovari, perché anche se i bovari, a vari compaiono di volte, o furono a fare maniera, chi tu che insomma, hai capito? Neanche ai valchi, a chi si dà i valchi ingrassi da gannaghi tu sempre, a chi sa tra animali. Ma è meglio di ragione dove c'è solo andare dritto in carriera e buff, niente del genere, non dove c'è nemmeno pesci, ma cosa dove hai fatto un reato, hai fatto un grave, e tu non dove ce ne fai che cose, dove c'è le begliarli, questi di Trento, e la battita già in mare. Dovrebbe essere così, ma così non sarà mai, purtroppo... Paese no, pare di no, bene che funghina di combinato qui, però non è così, non è così, chi si non si tocca, né di vasini e di tutto quello che vuoi, fate tanto quello che vuoi. Ma anche nel nostro piccolo, se tu abbaiti, no? Se a te ti servi un piazzini, no? Non trovate, se tu fai un problema di salute e di casa, beh da giornale ti dai 9 luoghi. E devi dare 9 luoghi. Andai in aereo e dici no, aspetta che io un casino. Chiama uno di chi, qualsiasi sia, mica ha chiamato per un avvocato, un magistrato. Pronti, lo boccio, mi lo per la terra di un aereo. Capito? È così. No, ma sei maniacci, soppa, dai, dai. No, non è giusto comunque, non è assolutamente giusto. Non andare mai che si dorsi. Sono stati filmati Bulu, mi pare che era e ci diricandaro. Avrebbe trovato la notizia, un casino stesso. Cioè, è ancora che gli elementi sono fuori a far leggi cosa. Ma vai, ci impediti da guru, vai. Voi e tutte le altre macchine che avete in capo. Cioè, il cazzo vuole migliaia e tutti dovete in carina, invece non li fate di nuda. Nuda, nuda, non li fate di nuda. E non vi pensate neanche di farli. Sì, anche voi quando fate nei casino, ti lo dite nel giornale, no? E trovato chi tu casa è abusi per la bustarella, ma poi di una bustarella, no? Una cosa da 20.000 euro, ma che cazzo di 20.000 euro? Ma poi non aggiungi i zeri. Cazzo, combini una cosa tu subito di cose in grande, combini una cosa lì, sì. No, è una cosettina, poca roba, no? Ah, non ha tutti ci sarà l'impressione. Per carità, ma per carità, vero, bel uomo. Oh, yeah. Beh, esci, io ho entrato in me, io mi saluto, che non mi ha mandato a travagliare. Buonanotte a tutti, mi ha fatto piacere la chiacchierata, buonanotte. Eia, ciao, ciao, Anto, ciao, ciao. E Luca? Luca, buonanotte, ciao, ciao. Eia, dai, ciao, Luca, ciao, Anto, ciao, ciao, domani, ciao, buonanotte. Sicuramente un caro, sa di me. Buonanotte, ciao, ciao.